lì c'era lotta continua, la sede continua di lotta continua ce n'avevano quel portoncino lì che c'ha, ecco, le persiane verdi, ecco. La venne lì. La venne c'era lì. Sofri. Ma ne sono mai andato. La sera c'era Sofri. Sì, Sofri. Sì. Veniva il video compressi, venivano di lotta continua di massa e veniva un, come si chiamava, gli aveva un nome siciliano. Scaramella, Scaramella, non mi cucina. Poi veniva gente anche da Genova e da Milano. C'erano lì nel piccolo ospedaletto, i primi tempi. Sì. C'erano le candele. Sì. E neanche la luce. Certo. Ci invitavano, però si ragionava perché c'era anche della borgata, c'erano. Nella cantina. Poi i giovani c'erano anche nel PC. E Sofri, prima di fare, diciamo prima di essere esponente della Tauntina, gli è stato professore di mia sorella alle magistrali, insegnava lettere italiano, letteratura e latino, Sofri, e la mia sorella l'ha portata in gita all'Isola d'Elba negli anni 67, prima del 68, lui è pisano, ma ha insegnato alle magistrali di Massa. Alla stazione cosa è successo? C'è dei trafferugli. Con la polizia. Con la polizia. Perché loro in carta, insomma. Ma per chi è successo? Perché era successo dei fatti in Italia o per. Quando scende da te, cioè, viene a fare. Volantinaggio. Gli erano tutte le basi. Sì, sì. Allora è stato uno scontro con la polizia. Gli espropri proletari a massa l'hanno fatti alle case popolari. Io credo. Quando è tutta l'arcorda. Su un cabacola. Erano a costruire le case popolari, ma visto anche la miaggia. Sì, sì. E allora loro lo occuparono, appena fatte, tutta la gente. Occupazione proletaria. Proletaria, no? Era anche lo sticcione. Sì, lo sticcione. Tutte le gente con i lesti, con le valigie, ma era no, perché, anche perché Vermori l'ha fatta anche a Roma questa sì, cosa. A Roma, a sa. Milano. Era sempre spostato a Roma. Ci spostavano, no? A me Vermori che voleva venire, non le vado. Ma voleva anche a me, portasse sempre il vino da Gino. Non era nemmeno. C'eravamo il vino della cantina nostra per farlo. Allora ti racconto. La prima volta sono entrato al carcere. Sono stato al carcere, ti accompagnavo le guardie che avevano tutto la roba. Lui mi ha visto, mi ha salutato e è venuto giù. Lo accompagnavano in infermeria, già aveva un accesso dentale. Portavano giù. A un certo momento la guardia l'ha stazionato, gli ha dato un cazzotto, l'ha stesa in terra. Quando sono venuto l'altra, dopo una settimana non c'era ancora. E ho detto alla guardia, mi scusi, ma... Dove l'ha messo? Dove è il detenuto Gino? Non si può dire. Non si può dire, l'avrà pistato. L'avete fatto nero, sicuro. Dopo l'ho visto lui, ma fuori. Te l'ha contato? Mi ha preso la nota con una coperta addosso in 4-5 guardie, tu li vedi mia perché se ti vedo poi ti fa pagare la porta. E lì è stato povero cinese, io che non ha mai voluto. E Daniel si è più. Si era tagliato le dita a lavorare, la sera, la presa gli ha tagliato così. Che il pollice di Arevon. Chiama questi qua. Il munchin qui. Teneva il marmo così questi. Sì, fece un brutto incidente. Lavorava la presa. La destra, mano destra, in pestana. E io cane il ginetto. Ma una fresa, porro cinese. Anzi, sa dove è il ginetto? Mi ha dato più notizie, che l'hanno ammazzato. Dopo che è successo il fatto? Troppo tempo, non si è più saputo niente, perché lo cercavano, i fascisti lo cercavano. Li hanno cercati anche a Parma e via. Sono sempre con Bermolo, con quelli della lotta continua, mi hanno dato. Dice, ma questo aspetta a venire di qua. Avrebbe avanzata come lotta, certo, no? Come idea. E il PC sarebbe burocratizzato, insomma. Diciamo che erano gli anni della rivolta. Sì, e volevano rivoltare proprio. Certo, ma bisognava anche, magari. Forse se a quel punto. A quel punto lì qualcosa, la polizia in Italia si faceva. Era riuscito. Si faceva un po' di polizia.